Italia in controluce. Bene, bene, sono le 13:32 minuti e 26 secondi ed è Daniele Biacchese che vi sta parlando sulle frequenze di Radio 24, il Sole 24 Ore, quella che state ascoltando e che ascoltate ogni giorno a quest'ora insieme alla mattina alle 6:30. Si chiama Italia in controluce ed è una trasmissione, ed è un programma della redazione di Radio 24 che parla di cronaca. Erano le 3:32 minuti primi della notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 quando la terra tremò in Abruzzo. A distanza di 2 anni siamo tornati nei luoghi colpiti da quel terremoto. Lo abbiamo fatto ieri con Sabrina Pisu in un bellissimo reportage che era più dedicato all'Aquila. Oggi parleremo di Onna e delle inchieste. Questo terremoto che aveva ucciso 309 persone, ad oggi dopo 2 anni non vi è alcuna giustizia per quelle morti. I reportage dall'Aquila. Oggi siamo andati nel paese simbolo di questo sisma, Onna, perché è certamente il più colpito in termini di distruzione di vittime. Ad Onna c'era in questi giorni la nostra inviata Raffaella Calanda con le sue inchieste di storiace che trovate anche sabato alle 13:15. Dove siamo? In questo momento stiamo nel centro di questa frazione che si chiama Onna. I bicchieri sono ancora lì, in una vetrinetta sospesa nel vuoto. Dopo le scosse e dopo 2 anni, anche il mobiletto verde di un bagno con i suoi flaconi resiste, appeso ad un muro sempre più pendente. Rimosse colline di macerie, la vita interrotta della vecchia Onna è tutta qui e par quasi di violare l'intimità di queste famiglie, attraversando la zona rossa di un borgo diventato il simbolo del terremoto, con i suoi palazzi distrutti e i suoi 41 morti. 2 anni dopo, la vecchia e la nuova Onna sono una di fronte all'altra e il confine lo traccia una galleria di foto. Strade con i fiori, vecchi davanti al bar, la cappella del Corpus Domini. Ora, da una parte ci sono le rovine che hanno il cielo come tetto, dall'altra casette di legno con fuori il prato appena tagliato e dentro le foto di chi non è sopravvissuto. Qui dove stiamo in questo momento è la piazza principale, c'è la chiesa, purtroppo veramente distrutta dal terremoto. Qui la Germania sta operando già il progetto insieme all'arcidiocesi poter ristrutturare la chiesa. Quindi mentre qui tutte le case si vede che sono praticamente collassate su se stesse e verranno ricostruite da capo, per la chiesa si sta tentando un futuro, un'opera di ricostruzione, di restauro? Ovviamente sì, è stata tutta puntellata esternamente, internamente, perché va salvata. Come lo stiamo studiando adesso, nel salvarla nel miglior modo possibile. Antonello Ricotti è l'ingegnere aquilano che per l'ambasciata tedesca sta seguendo i lavori di Onna, adottata dalla Germania, che così ha voluto onorare un debito con la storia dopo un eccidio nazista. Camminiamo sui resti dell'originario acciottolato e là si vede una casa con lo scheletro di un loggiato, qua di una palazzina si riconosce solo il perimetro. Era un'unica collina di rovine ed è stata portata via. Dei portali hanno resistito e saranno recuperati, come stabilisce il piano per la ricostruzione che la Germania presenta nel secondo anniversario del sisma, un nuovo impegno dopo i 6 milioni già spesi per finanziare ad esempio l'avveniristico edificio tutto bianco diventato il cuore della nuova comunità. Di fatto è solo un simbolo perché ormai non è rimasto più nulla, è rimasto in piedi solo questa facciata, miracolosamente, perché tutto il resto è andato tutto giù via. Questo era l'edificio che nell'11 giugno del 44 fu fatto saltare con 17 onnesi fucilati dentro. Fu ricostruito pietra su pietra, adesso non è rimasto praticamente più nulla. Questa è una facciata che siamo riusciti a salvare, ovviamente verrà ricostruito tutto l'interno e la facciata rimarrà così, la terremo a memoria, a ricordo di quello che è successo. Ecco, qui la Merkel quando è venuta ovviamente è stata una tappa della sua visita particolarmente simbolica. Fa un po' impressione vedere in questa distruzione, diciamo, generale, qui ci sono le macerie proprio a pochi metri, che la lapide sia rimasta quasi intatta. Questo che ci ha fatto veramente riflettere come tutto è andato distrutto e questa facciata con la lapide è rimasta in piedi. Ecco, proprio qui di fronte vediamo un faro, questo è un faro messo proprio dalla Germania, per la notte si illumina per ricordare un po' che qui c'è ancora vita, è un faro della speranza. La speranza si chiama ricostruzione, ad Onna come all'Aquila e come in tutti i 56 comuni scossi da un sisma che ha ucciso 309 persone e cambiato i volti di chi è sopravvissuto. Le piastrelle colorate che ancora si vedono sui brandelli di muri stridono infatti col velo di malinconia calato sullo sguardo soprattutto dei più anziani di questa frazione. Purtroppo ogni volta che uno si alza la mattina si ritrova davanti a tutte queste macerie, io ho la casa lì in mezzo, vado ogni tanto, però a malincuore, insomma, perché qua diciamo che stiamo bene, non ci possiamo lamentare, perché certo non è casa nostra. Quello è stato un gran vantaggio che tutto il paese è riunito qua, insomma, quindi a differenza delle altre parti che stanno un po' da una parte e dall'altra, insomma, non si ritrovano, diciamo. A questo punto voi desiderate che però i lavori di ricostruzione partano? Quello è la nostra speranza, che partano le ricostruzioni al più presto, insomma. Io ho una certa età e non so se potrò rivedere casa mia in piedi, però almeno se iniziano le costruzioni, la ricostruzione già è una cosa che si inizia. Loro almeno stanno tutti insieme e tra le case di legno sono stati ricostruiti gli originali rapporti di vicinato e la gente è qui che si incontra nella chiesetta di legno o quando va a mettere i fiori davanti al monumento in ricordo delle vittime del 6 aprile. Questo invece all'Aquila, che ovviamente ha altre dimensioni, non è successo e tra i vialetti delle New Town gli anziani passeggiano solitari in una periferia senza storia di una città ormai senza centro. Stavo all'Aquila, però l'appartamento è caduto e non ci si può andare per adesso. E in centro, a 200 metri da Piazza Duomo, stavamo, Piazza Santa Maria di Royol. Eravamo abituati, erano 30 anni che stavamo là. Purtroppo il terremoto è successo quello che è successo. Ha una qualche idea quando potrà ricominciare la ricostruzione della sua casa? Ma non si sa niente, chi dice che incominciano, chi dice che non se ne parla per adesso, non si sa ancora praticamente. Le case che sono crollate all'Aquila però erano anche case che non dovevano cadere, erano case col tetto di cemento ma talvolta anche con la sabbia nelle strutture, erano palazzi rifatti da poco, erano residence come la casa dello studente che avrebbe dovuto avere tutti i sistemi antisisma come quei cuscinetti ben visibili ora alla base dei pilastri nelle New Town, ma erano case costruite a volte anche con materiali scadenti come le inchieste hanno ricostruito il procuratore Alfredo Rossini. Abbiamo la famiglia, tutte le visite che abbiamo fatto, le visite del materiale, abbiamo controllato tutto il materiale, quindi colposi diciamo sono a volte fatti su lavorazioni mal fatte, altre volte invece ci sono state delle attività dolorose nel senso di aver usato del materiale appunto per lucrare su questo. Tutti quanti stanno in fila, sono tutti quanti completati da parte della procura. Procuratore, di questi 200 fascicoli, 220, lei ricorda per quanti ci sono state delle archiviazioni? Più o meno saranno, che ne so, 10%, 15% per questi qui, e gli altri un po' di meno. Un sito, un fascicolo, l'Aquila come un intero corpo di reato. Due anni dopo dei processi sono già cominciati e altri stanno per iniziare e ci si interroga se il sequestro delle macerie non rallenti ulteriormente una ricostruzione che sembra impantanata. Hanno lavorato col fiato sul collo gli investigatori e in un improvvisato tribunale perché la città reclamava risposte, commenta Rossini che anticipa a Radio 24 che presto chiuderà anche l'indagine sulle infiltrazioni mafiose e sulla ricostruzione che ha portato già all'iscrizione di uno dei coordinatori del PDL, Denis Verdini, per aver cercato di introdurre negli appalti il consorzio Federico II. Il comune si costituisce parte civile nei processi e la giustizia, prevede il sindaco Massimo Cialente, servirà anche a portare serenità alla città. Il dramma è che i morti, i palazzi che hanno fatto 17 morti, 14 morti, la casa dello studente, erano le case che non sarebbero dovute cadere, che non avrebbero dovuto riportare un collassamento così immediato. Quelli che sono morti sono quelli che hanno detto usciamo, no, non usciamo, vabbè, ma stiamo a casa in cemento armato, siamo tranquilli. È lì che diventa il fatto grave, tant'è vero che guardi, su molti crolli la magistratura non sta indagando, su Onna non sta indagando, perché è chiaro che case di pietra i muri a sacco, è chiaro che non hanno retto, no? Il problema sono lì dove c'è il cemento armato. Secondo me porterà una serenità, nella, se non altro nella storia. Simbolo del terremoto e una delle più complesse indagini è quella sulla casa dello studente, per il cui crollo sono state indagate 11 persone. Il processo è all'udienza preliminare. Le rovine che uccisero 8 giovani sono ancora lì, sotto sequestro, proprio lei di una città che dal 6 aprile è rimasta senza città. minuti e 53 secondi ed è il reportage da Onna e dall'Abruzzo della nostra Raffaella Calandra. Ieri e oggi dunque abbiamo ripercorso quei drammatici momenti della notte tra il 5 e il 6 aprile del 2009. Continueremo naturalmente come sempre Italia in Controluce a occuparci di cronaca, a ritornare nei luoghi, a raccontarvi naturalmente quelle che sono non tanto e non solo, perché quelle non servono, le nostre impressioni, ma la nostra, il nostro modo di raccontarle attraverso le testimonianze, le tante testimonianze, e fanno dunque Italia in Controluce. Dunque appuntamento a domani alle 6.30 su Radio 24.